Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Quello che emerge in Sicilia, ma direi in tutte le regioni d'Italia, è la triangolazione tra imprenditori mafiosi, imprenditori spregiudicati e politici amministratori locali corrotti. Roberto Scarpinato li chiama sistemi criminali, sono il volto nuovo delle mafie, gruppi di potere coi tratti rassicuranti dei manager che offrono però alle imprese servizi illegali appetibili. Davanti al Parlamento europeo, nell'audizione dello scorso 29 marzo, il magistrato siciliano, ora alla guida della Procura Generale di Caltanissetta, prima a Palermo, ha toccato tutte le sfumature della zona grigia, una zona grigia dove i soldi delle cosche si confondono con quelli puliti, in un contesto di reciproche convenienze, generali consensi e fitti silenzi. E contro questi sistemi criminali è un approccio ampio, verrebbe da dire olistico, per attingere al lessico della medicina, quello suggerito da Scarpinato, dove la cattura dei latitanti va di pari passo con le norme sulla corruzione o la difesa di un mercato, per evitare ad esempio che in Sicilia il settore delle energie rinnovabili, secondo le ricostruzioni di un'inchiesta dell'anno scorso, sia nelle mani di un piccolo gruppo. Ma questo, secondo quanto scrive Scarpinato nella sua relazione a Bruxelles, è un discorso da estendere a molti settori. La costante è questo: di questa struttura fanno parte soggetti che appartengono a mondi diversi, il politico, il pubblico amministratore, l'imprenditore, l'affarista e il mafioso colletto bianco. Ciascuno mette in campo le risorse di cui dispone, ma tutti convergono per l'unico risultato di creare una situazione di vantaggio competitivo per quelle imprese sul territorio. Si vengono così a creare delle situazioni di oligopolio. In Sicilia il mercato delle produzioni dell'energia alternativa è sostanzialmente nelle mani di 10-15 persone. Noi abbiamo nel giugno dell'anno scorso sequestrato un patrimonio di 1,5 miliardi a una persona che riteniamo essere un uomo cerniera tra la mafia, Matteo Messina ed altri, e alcune importanti lobby finanziarie nazionali e internazionali. E pochi giorni fa in Sicilia è stato arrestato un deputato regionale che stava intascando una tangente per velocizzare il rilascio di alcune autorizzazioni in questo campo. Certo, ecco. Proprio su questo, anche nella mia rubrica Storiacce, ce ne siamo occupati tanto sul fronte delle inchieste sul fotovoltaico, sull'eolico e anche della congiunzione intorno a questo mercato delle autorizzazioni, diciamo così. Ci torniamo. Prima però lei ha accennato a molti spunti che segnano un po' questo cambio delle mafie a sistemi criminali, partendo dall'assunto di un mercato globalizzato. Mi incuriosisce il dato sul progressivo, diciamo, aumento anche di disponibilità economica di una nuova borghesia cinese, che quindi si può tradurre in una nuova opportunità di affari per gruppi criminali, in particolar modo per la droga, secondo voi, se non erro? Diciamo che alla fine degli anni Ottanta il mercato della cocaina si era quasi saturato, tant'è che i prezzi si stavano abbassando, se non che con la globalizzazione e la nascita in Cina di una neoborghesia mafiosa che viene calcolata oggi in 250 milioni di persone e di un potenziale mercato di nuovi consumatori di droga, tenuto conto della crescita del reddito dei paesi emergenti, paesi dell'est europeo, si pensa possa portare nei prossimi 20 anni il popolo dei consumatori di droga a livello mondiale a circa un 15% della popolazione mondiale. Ci troviamo dinanzi a dimensioni talmente ingovernabili con gli strumenti del diritto penale da fare pensare a una liberalizzazione delle droghe. Qui ci troviamo dinanzi a un fenomeno di mercato illegale che si sovrappone al mercato legale e che addirittura si ibrida in certe forme. Certo. Dobbiamo capire perché si crea il consenso sociale in certe zone. Mi ha molto colpito leggere nell'ordinanza di custodia cautelare che è stata emessa a Milano qualche giorno fa, il giudice ha scritto che era veramente inquietante il livello di consenso sociale diffuso. Ecco, veramente... lei ha toccato uno dei punti adesso anche di più forte dibattito politico giudiziario, in particolar modo a Milano, cioè quel consenso sociale raccontato, denunciato dal giudice nell'ultima ordinanza di custodia cautelare contro l'Ndrangheta va di pari passo con la sommersione delle mafie e allo stesso tempo con l'assenza di denunce. Paradossalmente siamo più avanti noi in Sicilia che in questo momento in Lombardia, perché in Sicilia c'è un pezzo importante di Confindustria che si presenta con personaggi come Ivan Lobello, come Montante, che ha iniziato un lavoro di sensibilizzazione culturale all'interno del mondo imprenditoriale, e questo non accade in Lombardia. E io non so bene da questo che cosa dipende. Alcuni imprenditori mi dicevano che molte imprese operano in qualche modo nella illegalità, sotto il profilo dell'evasione fiscale, sotto il profilo della violazione delle norme sulla sicurezza dei lavoratori, sotto il profilo della violazione delle norme sindacali, e che quindi sono ricattabili dalle mafie che conoscono questi scheletri dell'armadio e preferiscono tacere. Quindi anche le varie inchieste che apparentemente sembrano vertere su tutt'altro, tipo vicende di corruzione o vicende di evasione fiscale, devono essere considerate in quest'ottica come spie di una futura, diciamo, maggiore aggredibilità e o comunque disponibilità. Le imprese che operano nell'illegalità sono facilmente permeabili alle infiltrazioni mafiose, sono ricattabili dalle organizzazioni mafiose. Non è un caso che in Sicilia Lobello e Montante dicono che per combattere la mafia occorre che le imprese intanto ripristino pienamente un mercato che sia veramente tale e quindi opera in condizioni di legalità, perché altrimenti non si hanno le credenziali sociali, morali, politiche e culturali per ingaggiare una lotta contro, diciamo, le imprese mafiose. Lei ha parlato appunto della convenienza anche delle imprese nell'accettare le regole mafiose, una convenienza che si traduce non anche nell'accettare le regole mafiose, nell'accettare le opportunità. Ci sono dei settori in cui questo tipo di meccanismo si è dimostrato in modo più palese che in altri? Per quanto riguarda le regioni meridionali, sino all'inizio, alla fine degli anni 90, il settore degli appalti pubblici e dell'edilizia è stato il terreno principale di operatività dei sistemi criminali. Ma bisogna tener conto che dopo il trattato di Maastricht, che ha imposto rigorosi tagli alla spesa pubblica, il mercato, diciamo il settore degli appalti pubblici, sta subendo una progressiva contrazione, e poi diventa un business sempre più rischioso, perché gli strumenti di indagine si sono fatti più penetranti, perché ci sono leggi più rigorose, e la nuova mafia di ultima generazione dei colletti bianchi ha cominciato a prendere altre strade, tra cui quello del settore della produzione di energie alternative, della grande distribuzione, della sanità, dell'alta tecnologia. E le indagini che noi abbiamo fatto ci hanno fatto rendere conto che appunto, per esempio, nel settore del fotovoltaico si era creata una situazione di oligopolio che era assolutamente anomala. Il mercato era nelle mani di una decina di persone che si nascondevano dietro una girandola di società diverse, che poi però, fatte le dovute indagini, ci si accorgeva che queste imprese prima o poi finivano sempre nelle mani degli stessi soggetti. Soggetti che avevano contatti anche con la mafia giapponese, se non erro. Si tratta di uomini cerniera, interfacciano la mafia tradizionale con soggetti che operano nella grande finanza. Attraverso i rami siamo arrivati anche a delle società finanziarie nel cui capitale noi abbiamo ritenuto di poter individuare anche capitali che vengono dagli yakuza giapponesi e dalla mafia russa. Tra l'altro è un settore che necessita, per vari motivi, di passare attraverso il pubblico. Lei appunto si trova a Bruxelles ed è proprio l'Europa che, ad esempio, sulle energie alternative sprona e indica delle percentuali di sviluppo per il fotovoltaico come l'eolico. Quindi, secondo lei, che strada bisognerebbe percorrere per in qualche modo cercare di tamponare, di ridurre queste infiltrazioni malavitose in un settore che la stessa Europa, diciamo, ci sprona a far crescere? La realtà è che purtroppo si sono venute a creare delle aree di opacità politica amministrativa che rendono poco trasparente la gestione di certi settori. Io credo che quello della corruzione, che la Corte dei Conti ha individuato un fatturato di 60 miliardi di euro, sia veramente un'emergenza nazionale insieme a quella della mafia. Io credo che bisogna varare un piano, non solo un piano straordinario contro le mafie, ma un piano straordinario contro la corruzione, per restituire alla magistratura alcuni strumenti strumenti che di cui è stata privata. Per esempio, un reato spia, qual è l'abuso in atti d'ufficio, è stato depenalizzato. Il falso in bilancio attraverso cui si costituiscono i fondi neri è diventato un cane che abbaia e non morde. Con l'ultimo indulto abbiamo mandato al macero centinaia di indagini che riguardavano le truffe ai danni della comunità europea per i fondi per l'energia alternativa, come per la 488. Allora, quindi nel piano concreto, secondo lei, una stretta sulla corruzione potrebbe essere un primo inizio? Qualche mese fa, a ridosso dello scandalo sui grandi appalti della protezione civile, era stato annunciato un piano straordinario contro la corruzione. Purtroppo è finito nel dimenticatoio. C'è chi definisce la corruzione una forma di tassa occulta, e secondo lei su questo incide anche la prescrizione breve, perché molti spesso sono incensurati? Le dico solo un dato: quando con la legge chiamata ex Cirielli sono stati ridotti i tempi di prescrizione del reato, alcuni reati come l'abuso innominato sono diventati reati che non si possono più perseguire. Fino al 2000 le condanne per abusi nominati in atto ufficio erano circa 1500-1600, dopo sono diventate 34-35. Se aggiungiamo a questo anche la prescrizione breve, anche quelle 34-35 con sentenze non le avremo più. Ma io una proposta al Parlamento l'ho lanciato quando sono stato sentito alla Commissione Giustizia. Ho detto: guarda, facciamo come fanno in Inghilterra. Perché i reati si prescrivono? Perché non è che noi accertiamo i reati nel momento in cui vengono consumati. L'accertiamo un anno dopo, due anni dopo, tre anni dopo, ma la prescrizione decorre dal momento in cui i reati sono stati consumati. Dalla parte dell'Europa su questo fronte c'è qualche richiesta in particolare che viene fatta all'Italia? Ad esempio, un fronte che viene spesso ribadito è quello della mancanza in Italia di una legge contro l'autoriciclaggio. L'Italia è inadempiente nei confronti dell'Europa sotto vari fronti. Non ha ancora recepito la Convenzione europea contro la corruzione. L'Italia non ha ancora recepito le norme europee che stabiliscono che la confisca per equivalente deve essere obbligatoria per tutti i reati, e ancora l'Italia non ha recepito la raccomandazione del Fondo Monetario Europeo, del governatore della Banca d'Italia, del procuratore nazionale antimafia sull'autoriciclaggio. Noi abbiamo una serie di mafiosi che possono riciclare impunemente. Purtroppo si è disegnata nel settore del riciclaggio una vasta area di impunità che non consente di perseguire penalmente importanti soggetti della mafia. Ritrovate Storiacce sulla nostra pagina Facebook o sul nostro audioblog. Per riascoltare invece questa puntata, come tutte le altre, www.radio24.it. Ciao a tutti, a sabato!